800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS. Avete sentito un dialogo tratto dal film La fabbrica di cioccolato, dove un bambino è alle prese con un biglietto che vale molto di più dei soldi contanti. Ecco, Gregorio Fogliani, presidente e fondatore di Qui Group, il primo gruppo a capitale italiano nel settore dei buoni pasto, dei sistemi di pagamento, dei programmi di fidelizzazione e di molto altro ancora. Si occupa adesso di monetica. Che cos'è la monetica? La monetica è riuscire a transare in modo efficace e semplice qualsiasi pagamento che uno fa in qualsiasi transazione finanziaria. Ecco, lei dice che c'è bisogno di esperti di monetica. Perché? Perché oggi la monetica è vista come un problema invece che un'opportunità. Diciamo, fare una transazione in modalità, cioè con una carta, un domani con un telefonino, sarà un aspetto molto positivo perché eliminerà tutta una serie di problemi che oggi ci sono col contante. Per esempio, quali problemi eliminerà? Il problema, per esempio, è che casomai si ricevono dei resti che non sono giusti. Per esempio, i pensionati tante volte si lamentano che non ricevono il giusto resto. Senta, il business dei ticket vale 3,42 miliardi di euro, coinvolge 135 mila esercenti e oltre 2,3 milioni di lavoratori che utilizzano 500 milioni di buoni in un anno. Il 7% di questi è elettronico. Il futuro è arrivare a 100% elettronico. Tutto elettronico? Assolutamente sì, il futuro sarà caricare su una carta di pagamento qualsiasi tipo di servizio o caricarlo sul mobile. Noi per esempio come Qui Group è da 7 anni che lavoriamo con 4 università per far sì che la carta oggi, che è una carta di pagamento, diventi una carta multifunzione, multiapplicazione e multiemittente. Ecco, ma in questo settore l'Italia può insegnare qualcosa al nord dell'Europa o siamo allineati? Guardi, assolutamente sì, perché noi oggi siamo stati per esempio premiati, no? Con un sistema abbiamo caricato per esempio sulle carte delle poste il cashback, cioè un sistema di fidelity dove è stato premiato a livello internazionale. Però le dirò di più, in Brasile per esempio oggi ci stanno cercando perché vogliono, chiaramente sono molto interessati a questa tecnologia, a questo modo di approccio verso il cliente. Quindi addio le banconote, ma come? Le banconote oggi sono un problema perché le banconote bisogna poi gestirle. Lei tenga presente che naturalmente un domani uno che ha una carta, cioè un pubblico esercizio, oggi è visto la transazione elettronica come un problema perché costa. Invece il domani una carta, come avendo a bordo più servizi, è un'opportunità per avere più clienti ed eliminare tutta la gestione del contante e dei rischi anche dei furti. E quindi anche addio all'evasione, diciamo in qualche modo, tutto tracciato. Certo, dovrebbe essere tutto tracciato, perché sennò si fanno tanti discorsi ma non si producono mai fatti, no? Senta, voi dite innovare per crescere. Senta cosa ha detto Renzo Rosso, patron della Diesel, al forum sull'economia positiva a San Patrignano. La mia filosofia è be brave, cioè ogni cosa tentare di pensarla, di vederla in visione moderna. Ma senza estremizzare, non serve andare a inventare il mondo, non serve, ma solo pensare questa cosa qua che esiste da tanto tempo, come potrebbe essere realisticamente più concreta, più attuale, più moderna. La gente normalmente non ha la testa per pensare a questo, è incredibile. La gente solamente vede le cose, vuole stare con quelle cose e non fa mai niente per cambiarle. Dove ha trovato l'idea giusta per far esplodere la sua azienda? Sta proprio nell'innovazione, cioè nel senso di far sì. Cioè oggi noi avevamo prima, la Qui Group aveva un prodotto unico, aveva da una parte clienti e da una parte migliaia di esercenti. Il nostro obiettivo era fidelizzare, cioè qualsiasi cliente, qualsiasi azienda vuole da una parte fidelizzare il cliente, da una parte aumentare i clienti e comunicare in un modo efficace, sì, con le proprie aziende. Noi cosa vogliamo fare? Noi abbiamo detto, cioè prendiamo una carta, cioè uno strumento che uno ha già in tasca, può essere un telefonino, una carta, sì, o un pezzo di carta qualsiasi, carichiamo a bordo più servizi possibili, cioè il buono pasto, il buon acquisto, un buono sociale, un buono sconto, un couponing, qualsiasi cosa, e cerchiamo di fare farlo leggere su tutta la rete, che sono i post, le casse, questo. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo realizzato quindi questo, una cosa apparentemente semplice, ma in realtà che ha una multitask, insomma, multifunzionale. Certo, perché il concetto qual è? Dopo, una volta fatto questo, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto ora lo dobbiamo far diventare più conveniente possibile, perciò abbiamo fatto una rete di loyalty, oggi lavoriamo con Poste, con Enel, con altre grosse aziende, dove quando lei va con la carta, oltre a poter pagare, riceve, diciamo, anche uno sconto in modalità, per esempio, cashback. Ecco. Cioè io pago sì. In un ristorante, pago il conto 100 euro, poi quel ristorante, siccome io ho una capacità, avendo come Qui Group 120.000 esercizi convenzionati, sì. Ho una capacità di fare uno sconto, perciò gli restituisco sulla stessa carta casomai il 10%. Certo. Lei ha iniziato a Genova all'inizio degli anni 90 con una piccola SRL che faceva ticket per il pranzo, adesso avete annunciato di andare in borsa, quando avverrà? Noi il più presto possibile, perché ma Piazza Affari o una piazza straniera? Non lo so, perché cioè, a questo punto bisogna cogliere le opportunità. Noi stiamo, come dicevo prima, uscendo all'estero, e chiaramente una piazza straniera sarebbe forse anche meglio. Però cioè, è tutto un processo, cioè se la cosa si rende il percorso semplice, sì. Invece. Che vabbè, si vedrà allora. Senta, intanto siete la prima società italiana che si occupa esclusivamente di welfare aziendale e sociale. Cosa fate in concreto? In concreto cerchiamo di fare quello che dicevo prima, creare una carta sociale, cioè una card, sì. Dove il dipendente dell'azienda può usufruire di tutta una serie di servizi. Cioè in tanti posti, per esempio, io mi immagino, non so, pagare meno il telefono, sì. E avere ambulatori sociali, avere la benzina con costi meno, cioè che questa carta avere una capacità invece che queste 1000 euro ti diventino 1300, 1400 certo. Euro. Senta. Noi siamo bravi a fare questo. Ecco, la vostra azienda ha 1000 persone fra dipendenti e collaboratori, le quota rosa sono il 70%, quindi la qualità è donna, insomma. Assolutamente, infatti cioè, noi siamo partiti che eravamo prima l'80, cioè 2 uomini e 10 donne, ora siamo 3 uomini e 7 donne. Senta. Perché le donne danno sempre un valore aggiunto. Senta, all'interno del gruppo c'è anche la Onlus Qui Foundation, che l'anno scorso attraverso l'iniziativa Pasto Buono ha donato 100.000 pasti ai più bisognosi. È difficile donare cibo? Assolutamente sì, è la cosa più difficile. Perché? È fare del bene. Perché oggi ci sono in tanti pubblici esercizi, ristoranti, gastronomia di supermercato e altri esercizi, cioè, c'è del cibo invenduto sano che va nei cassonetti della spazzatura. Invece questo cibo dovrebbe andare nelle tavole degli italiani. E non si fa niente per semplificare. Ecco, cosa voglio dire io? Ecco, Andrea Segre, che è il coordinatore del Piano Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, invece sostiene che ci dovrebbero essere più incentivi fiscali per le aziende che combattono lo spreco. È d'accordo? Sì e no, però diciamo, posso essere anche d'accordo, però io diciamo dalla mia esperienza, così, noi avendo migliaia e migliaia come quel gruppo, locali convenzionati, noi vediamo che c'è del cibo sano che va nei, cioè se lei va in una gastronomia di un supermercato alle 6:30 si compra della roba da mangiare e se la porta a casa se la può consumare. Se io voglio fare lo stesso gesto e poterlo donare, oggi non lo posso fare perché è penale, questo voglio dire. Reazione molto complessa questa intervista. Enrico dalla Grecia ci scrive: carta di credito per tutto, chi la dimentica a casa è morto. Mix 24. Respirando la polvere dell'auto che ti porta via, mi domando perché più ti allontani più ti sento mio. Respirando il primo dei ricordi che è veloce appare, sto fumando mentre entri nel cervello e mi raggiungi il cuore. È l'ultima settimana, Pietrangelo. L'ultima? L'ultima settimana che andiamo in onda. Questo lunedì finale, che cosa ci ricorda questa canzone? Ci ricorda questa canzone che a levarsi del sole rullano, Mario, rullano i tamburi del cosmo e Maya. dopo avere accudito Maya, dopo aver accudito metà del globo nell'oscurità, si precipita nell'altra metà dove l'aurora comincia a togliere dalle lenzuola le ultime briciole di sonno. E respirando, il cosmo, respirando, che cosa dice? Dice Om, ripete la vocale con la consonante che racchiude il tutto, e respirando ognuno dice sempre tu. Niente da fare. È irrimediabile. Tutto per dire che ha levato i veli a Maya. Esatto, capirai. Anche nell'ultima settimana. Senti, intanto tantissime reazioni a questa intervista che abbiamo fatto prima. Fabio ci dice quante micchiate per favorire le banche. Io voglio pagare in contanti e nessuno deve sapere cosa compro. Fabio, giusto. E chi ha avuto problemi con la card, con problemi bancari anche non voluti, come fa ad avere una card? Le risposte il prossimo anno, perché per adesso questo ancora non è, tu sai che non è chiaro. In America, dove le transazioni elettroniche sono la maggioranza, però la questione del frusciare del bigliettone verde è sinonimo di libertà. Cioè, infatti, denaro con tante. Un pochino di denaro contante aiuta certo. A essere liberi. Che cosa bolle nella nostra pentola? Andiamo, senti qua. Noi dobbiamo dare un segnale forte alla destra. Votiamo un simbolo dell'Italia Unita. Un nome a cazzo? Sì, Garibaldi. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Italiana Giuseppe Garibaldi. Era bello. Sì, era benvenuto Presidente, una fantastica interpretazione stupendo. Di Claudio Bisio. Non parliamo di Claudio Bisio, parliamo dell'attuale governo, del Parlamento, di Renzi, della Boschi. Da oggi voto in Commissione Affari Costituzionali. Sono 581 i subemendamenti, vediamo se regge il patto del Nazareno, cioè quello tra Renzi e Berlusconi. Dentro c'è anche della Lega, perché infatti l'accordo è firmato dai relatori, da tutti e due. Che sono Finocchiaro e Calderoli. I temi li sapete, ve li ripeto: superamento del bicameralismo perfetto, il Senato dimagrisce, diventa delle autonomie, soppressione del CNEL, riforma del titolo quinto. La cosa più importante è quest'ultima, la riforma del titolo quinto. Taglio perché? Del perché vabbè, taglio perché del Senato. Taglio del Senato. Ormai Robetta. La ciccia sta nella riforma del titolo quinto. Se si sblocca quella cosa, se si levano materie concorrenti con le regioni, se si leva il veto sulle infrastrutture, sul turismo, ed altre materie, ripeto, molto importanti. Lo Stato può essere riformato. Esatto, lo Stato funzionerà molto meglio, vedrete. Io non creo niente, io possecco e noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Era lui. Era lui, il nostro eroe. Il nostro eroe. Gecko. Gecko, dai. Allora, il vecchio Gordon, perché? Perché scade oggi, 30 giugno, il termine per pagare i bond argentini, come imposto dalla giustizia americana. Cosa farà Cristina Kirchner? Se non paga, tecnicamente si tratta di un default. Probabilmente, si dice, allungheranno di un mese la scadenza al 30 luglio. Comunque, l'Argentina è tornata a ballare il tango del debito. Pensa, aveva depositato nei giorni scorsi mezzo miliardo di dollari alla Bank Mellon of New York per pagare i bond del debito ristrutturato, cioè di quelli che avevano aderito al primo accordo. E il giudice gli ha detto, no, guarda, non va bene così. E gli ha detto, questi soldi tu non li puoi usare, quindi restituiscili, perché prima devi pagare 1,5 miliardi ad altri debitori che non avevano aderito, in particolare a degli hedge fund. Quindi è sempre tango bond. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. Siamo. Te piace, l'ultima settimana. Bella, l'ultima settimana. Salamini. Mai colonna sonora fu più opportuna. Allora, camminare come su di un filo. Dunque un filo di fard, un filo di trucco, un filo di tacco, un filo di follia. E il cavaliere, seguendo la propria fidanzata Francesca Pascale, neo iscritta all'Arcigay, apre agli omosessuali e sorpassa tutti, ma proprio tutti gli esami di presentabilità sociale. E quindi diventa il nuovo paladino dei, si dice diversamente, tutelati. Come? Si dice così? Si dice così. Ah. Tu di politicamente corretto ne devi sapere più di me perché tu sei occidentale. Niente. Quindi che c'entra? Ma sono politicamente scorretto da sempre. Vabbè, però voi occidentali ste cose le fate. Che quindi tu sei orientale. Sì. Ma da quando? Io sono mediterraneo. Allora, lo dici a me. Pazzo di gioia e no, lui non è mediterraneo, è sardo. È sono isolaro. Che vuoi? Sto al centro. Oggi è una festa importante per voi sardi. La battaglia di San Luri, basta. Oh, vedi, glielo devo ricordare io. Allora, pazzo di gioia intanto è Dudu, ma anche Michela Biancofiore, che poveretta a suo tempo aveva detto una cosa, l'avevano fustigata, adesso ho dovuto dire che le battute inopportune non rivelano le cosiddette convinzioni omofobe. Allora, i casi sono due. O Berlusconi lo ha fatto per seguire un consiglio di Putin, ve lo ricordate? Quando Putin disse se Berlusconi fosse stato omosessuale non l'avrebbero aggredito, non l'avrebbe toccato nessuno, lo lasciavano oppure in pace. Oppuramente, per dirla con un linguaggio più crudo, Berlusconi ha deciso di seguire Francesca Pasquale in tutto e di cantare anche lui il calippo. Più calippo e più da un grippo, se per caso di Sono i primi effetti del Ramadan. Sì, su... sì, no. Quello è il caldo comunque. Vorrei. Il caldo e il Ramadan messi insieme devono essere un... Da serenità e lucentezza e soprattutto allo sguardo, affile il pensiero. Stai dimagrendo a vista d'occhio. Sì, sì, sì. La quota rosa ha delle incertezze sulla tua bellezza. Quota rosa! Buone notizie e che bella novità. Solo per oggi la guerra non si fa. Buone notizie, Pietrangelo. Stare a digiuno fa bene, non ti preoccupare. Ma scusa, una precisazione. Dimmi, il Ramadan non è una dieta. Hai ragione. È disciplina. È disciplina, e infatti sono d'accordo. Facebook ci conosce meglio di quanto ci conosciamo noi stessi. Vabbè. Ho scoperto, caro Mario, senti qua, che tra le condizioni di Facebook, quando accettiamo, c'è anche l'uso dei nostri dati a scopo di ricerca, come dei topolini ci trattano. Quindi altro che fidanzato geloso che controlla, madre impicciona, fratellino dispettoso che scrive un post scemo al posto tuo. Questi ci controllano. Infatti nel 2012 hanno studiato 700.000 iscritti e hanno contagiato emotivamente gli utenti selezionando i loro contenuti dei post. Cosa hanno scoperto? Che i contenuti tristi, aggressivi, rabbiosi contagiano molto più velocemente chi li legge. E succede un disastro per un social network che macina pubblicità, cioè usano meno Facebook. Aia. Però voglio dirvi una cosa, ci aveva visto lungo il grande Mike Buongiorno con il suo... Allegria! Hai visto? Bisogna dare le dare le buone notizie, per questo i giornali vendono poco, ne danno troppo poche. Siamo al canzoniere! Quando entrò il direttore, seguito da un nuovo in abito borghese e da un bidello che portava un gran banco, eravamo nell'aula di studio. Chi dormiva si destò e ciascuno balzò in piedi come sorpreso nel lavoro. Il direttore ci fece cenno di rimetterci a sedere, quindi rivolgendosi al prefetto. Mix 24. Ancora una bolla. L'avete sentito questo rumore? È il passaggio di un cacciabombardiere Sukhoi Su-30K. È l'aereo che la Russia... La Russia... Mi stavo preoccupando. Mancava immagini non sovietiche. No, si è un po' arenato in regia, no? Sul mixer. Posso fare una precisazione filologica? Sì. Inno russo. Russo. Vabbè, il grande Santa Madre Russia. Oh. È tutto chiaro, no? Santa Madre Russia ha mandato i cacciabombardieri in Iraq, cioè proprio. Siamo a tutti i paradossi storici, ormai sono stati superati dalla grande politica estera di Obama, devo dire. Vabbè, perché purtroppo è una cosa incredibile. Incredibile. Allora, e per combattere chi? Le milizie sunnite di ISIS, che nel frattempo hanno dichiarato il califfato, che va dal nord della Siria, cioè da Aleppo, fino all'est dell'Iraq. Insomma, ancora non hanno preso il Kurdistan, in realtà c'è un po' di incertezza sui vari fronti, ma è un problemone, direi, perché uno dice vabbè, hanno dichiarato il califfato ma non è niente di grave. No, è gravissimo, comincia la ristrutturazione della terra. Hanno diffuso un video dove attraversano il confine tra la Siria e l'Iraq senza problemi, come se non ci fosse nessuno. Stanno crucifiggendo la gente, applicano una legge islamica pazzesca. A Mosul sta succedendo di tutto. L'esercito iracheno è schierato su fronti multipli, si combatte in Kurdistan, si combatte a Mosul, nella provincia di Anbar, nella zona intorno a Baghdad. Vediamo che cosa succede. Hai visto? Io... provocazione senza reazione. Sì, no, ma tanto non ha reagito. Tanto buttafuoco su questo non può dire nulla. No, però posso dire tutto. Non puoi dire nulla. Posso dire tutto. Si è già espresso Khamenei con parole chiare. Esatto. E stiamo sullo stesso. Allora, la cosa incredibile tra i tanti paradossi scaturiti da questa grande linea della Casa Bianca è che io che buttafuoco siamo alleati con l'Iran. Iran e Obama stanno sulla stessa linea. Hai capito che, okay, che mi tocca vedere. Sciita con buttafuoco, il massimo. Salamino. Salamini di Padrini. Allora, l'arcivescovo di Reggio Calabria, che si chiama Giuseppe Fiorini Morosini, riferisce di aver discusso col Papa la sospensione. Ascoltate, dunque, la sospensione della figura dei padrini nei battesimi e nelle cresime per evitare le strumentalizzazioni delle cosche. A questo punto, più che Shaitan, è il politicamente corretto che si è impossessato della Chiesa. Non allora, è possibile. Sì, sì, guarda che il Papa sta valutando l'ipotesi di togliere i padrini. Ma chi te l'ha detto a te? Guarda, lo riferisce anche il Corriere della Sera, l'autorevole quotidiano. Allora, Che cosa succede? Che abbiamo fatto un ragionamento. Considerato che Michele Greco, capo mafia, veniva chiamato il Papa, sì. Bergoglio di certo sta valutando l'ipotesi di cambiare l'appellativo, ma il titolo, dai. La carica, ascolta, anche perché pontefice, che cosa vuol dire? Pontifex. Vuol dire il pontifex, quindi il facitore di ponti tra il cielo e la terra. E seguendo la dottrina di Bergoglio, chi sono io per valutare il basso mondo? Ma no. Pastore neppure, non perché, gli fa bene perché il Ramadan. Pastore no, perché urta la sensibilità vegana. Allora, compagno no. Compagno segretario, secondo me va bene anche perché ha dichiarato al Messaggero che già è stato derubato dai comunisti. Però lui sicuramente, Giovanni, non farà mai come Togliatti, perché Togliatti fu grandioso quando uno gli si avvicinò rivolgendogli il tu, caro compagno, e disse: compagno, diamoci pure del lei. Bergoglio, che invece ha la mano, darà del tu a tutti. Va bene. E però una piccola dedica a Duopo, in omaggio a quelli che sono stati padrini di battesimo e di cresima. Ascoltate. Parla più piano e nessuno sentirà. Io ho come l'impressione che sia siciliano. Ma non lo so. Ma proprio un disastro. Abbiamo Maurizio da Pordenone. Maurizio, buongiorno. Dacci un po', buongiorno, dacci un po' di allegria. Che cos'era il nostro canzoniere? Madame Bovary di Flaubert. Bravo, giusto, bravissimo. Feltrinelli. Hai vinto il Feltrinelli. Che fai? Sei a casa? No, sono al lavoro, nel mio allevamento di conigli. Allevi conigli? Esatto. E leggi Madame Bovary? No, non lo leggo, Madame Bovary. Se posso spiegare il perché, sì, ho la risposta a questo. Dimmelo, mi interessa. Praticamente... ho sentito la stessa domanda mezz'ora fa su un'altra radio, leggendo la stessa identica frase. Ma no. Dalla... Dove è andato ospite Buttafuoco senza dircelo? Non lo so. Certo, il conduttore di quella trasmissione era un po' imbarazzante, diciamo, per Buttafuoco. Comunque. Chi era? E chi era? No, era Platinette. Ah! Per l'uomo tutto molto tutto carina questa cosa. Siamo nell'onda del bovarismo. Questa ecco, è qualcosa che supera la realtà. Beh, lei è veramente spettacolare. Grazie. Comunque, se me lo mandate firmato lo leggo. Va bene, con piacere, grazie mille. Arrivederci, professore. Platinetta anche. Allora, professore. Buongiorno professore. Dov'era il canone in questo primo giorno dell'ultima settimana? Allora, per la gioia di Mario Secchi. Fermi tutti. Non controlliamo più la trasmissione. In tarda serata Rai 5 ha trasmesso un film formidabile che si intitola Arca Russa. Ah, è bellissimo. Un film del 2002, sì, di Alexander Sokurov. È un film stravagante nel senso migliore dell'aggettivo, perché è la storia di un uomo della contemporaneità che si trova all'Ermitage in compagnia di un intellettuale ottocentesco e inizia un viaggio, professore, veloce, attraverso tutto ciò che l'Ermitage ha rappresentato nella storia. Quindi vede Pietro il Grande, Caterina di Russia. Professore, abbiamo 10 secondi. L'ultimo zar, ma la cosa formidabile è che questo film dura 90 minuti ed è un solo piano sequenza. Meraviglioso, grazie professore. Grande. Oggi la storia a cura di Marina Milone, come sempre, dedicata a Sandro Pertini, la puntata realizzata da Francesco Zippel, e noi sentiamo un ricordo di Dino Zoff, la famosa partita in aereo al ritorno della vittoria dei mondiali. Pertini era in tutte le sue espressioni carico di e diretto e sanguigno. Ecco. Hai giocato male, Berzo. No, Berzo, faceva lui il 7. Lui non si è ricordato in fondo che l'ultimo asso, non so voi se giocate a scopone, c'era l'ultimo asso, lui invece non si è ricordato e ha ballato invece di prendere la carta vicina. Ecco, questo errore ci è costato la partita. Carino Zoff, su Twitter ci hanno scritto che il canone, caro professore, invece era su Sky Arte ieri sera, dopo il giornale radio, lo ricordo, la storia di Pertini, pubblicità.